19, le 18 e 34 minuti primi. Dopo una settimana, attenzione, fermi tutti, buoni, tranquilli. L'età purtroppo gioca brutti scherzi, ormai dobbiamo fare attenzione, io non c'ho più voce, esatto, credo, uno con la tisi, l'altro con la gamba di legno proprio, quando abbiamo iniziato eravamo giovani e arditi, mannaggia. Vabbè, allora, tornano le ore di religione dopo lo stop di una settimana che ovviamente... L'8 marzo siamo stati impegnati a seguire le manifestazioni in giro per Roma e per l'Italia. Ritorna la teologia estrema delle ore di religione e ritorna sempre su le stesse questioni, anzi grosso modo no, oggi mi sa che abbiamo qualche sorpresa. No, ti vedevo che dicevi cioè l'occhio luciferino, ho trovato qualcosa di super. Andiamo tranquilli e su quello che è stato un po' il filo conduttore delle ultime settimane, ovvero sia il rapporto, cioè delle ultime settimane, da sempre della nostra trasmissione, il rapporto fra trono e altare, fra politica e religione, in un momento in cui però queste relazioni sembrano essere piuttosto tese, e chi sente la rassegna stampa la mattina, insomma, comunque fa abbastanza attenzione alle cronache politiche, si renderà conto che non c'è giorno in cui il Vaticano, diciamo, non dice la propria, e spesso questa propria non è proprio molto digeribile. Tu che stai dicendo questo, mm-hmm. Facci un minuto di quello che viene, diciamo, detto come un riassunto di queste settimane della rassegna stampa, cioè che ne verrebbe fuori negli ultimi giorni. Guarda, la notizia di stamattina, poi sai che io personalmente mi faccio ascoltatore. Ti fai ascoltatore, allora tu non ti senti la lettura dell'Avvenire la mattina presto, perché giustamente vai a letto a ore antelucane. E stamattina, diciamo, sempre messe un po' dentro, insomma, non è difficile trovare grandi esplicitazioni, però per esempio oggi c'era non so quale alto rappresentante del Vaticano che ha detto che la questione delle cosiddette autonomie allargate è molto problematica, è molto complessa e in buona sintesi non è che ci piaccia molto, ecco. Prendendo una posizione precisa su un argomento grosso, molto divisivo, insomma, in altri tempi, in altre epoche questo non sarebbe successo, ma del resto, come abbiamo detto tante volte, in altri tempi, in altre epoche c'erano delle camere di compensazione che sono venute a mancare, non soltanto per il Vaticano e per la religione, per carità, anche, diciamo, per tutto il resto il discorso è molto lungo e laborioso, però in questo caso stiamo parlando di uno dei poteri forti per eccellenza al mondo, per usare questa brutta espressione che va tanto di moda, e ispiratrice questa potenza della forza politica che ha governato in Italia per 40 fondamentali anni, dal 1900, anzi un po' di più, dal 48 al 92, ecco. Quindi questo è un po' il quadro. Io direi che proprio da questo che tu dici mi senti? Sì, ti sento, ora sì. Ci sei. Dicevo, proprio quello che tu dici è interessante, perché mi viene da pensare, penso che, appunto, credo anche te sei d'accordo, che alla diciamo, alla luce dei fatti, per quanto sta accadendo, di cui stiamo discutendo, sembrerebbe che possiamo escludere dall'orizzonte politico italiano comunque la ricostruzione di un oggetto come era la Democrazia Cristiana. Assolutamente. Questo no. Ormai se ne sono fatti una ragione, cioè, anche loro. Ci siano dei tentativi, è possibile, però non si può assolutamente più progettare un contenitore del tipo che fu poi di fatto l'oggetto originario di Sturzo e De Gasperi, diciamo, per fare i due nomi più significativi nel corso di un trentennio di costruzione del partito, che poi è semplicemente l'evoluzione del Partito Popolare post-fascista, che si struttura nella Italia, diciamo, repubblicana, e poi dà vita a quello che tu dicevi. Io credo che servano determinate condizioni che sono saltate definitivamente, ma per motivi proprio di mutazione profonda della cultura. Oggettivi. Certo. Quindi non c'è più sul tavolo una possibilità. Ci sono dei disgraziati, nel senso proprio... privi di grazia. Privi di grazia, esattamente. In questo caso, che tentano, credo Rotondi mi sembra quello più interessante, che ormai è, diciamo, è una macchietta da commedia italiana di serie C. Cioè sembra uno dei personaggi, quelle soft comedy. Sì, poi lui si è creato sexy, un personaggio 70, per insomma, sopravvivere. No? Il Democristiano, che però poi c'è la storiellina con Anna Maria Rizzoli, esatto, Vitali, sì, Montagnani, perfetto, cioè quel contesto perfetto. Un po' di provincia. Del sì. Cioè è un Democristiano proprio di quinta fila, che però vagheggia comunque un ritorno. Ecco. Mentre, ecco, e questo invece ci dice che il discorso dell'appartenenza a quello che è diciamo la forma cattolica religiosa del culto, ma anche del vissuto, sta subendo proprio in questi tempi una grave crisi, come dicevamo. Quindi possiamo escludere comunque, cioè moriremo democristiani, no, nel senso non quella democrazia cristiana, ecco, però forse sì, perché qui la situazione è talmente ingarbugliata che comunque le radici cattoliche sono, diciamo, almeno rimangono un faro sul che conosci, esatto. Inestirpabili sul breve, certo no, sul lungo sicuramente più che altro per autoconsunzione, insomma, vanno un po' seccandosi, cioè non vengono travolte e negate da una struttura laica vera, potente, che, come dire, le spinge e le mette veramente nel luogo che merita, cioè soltanto il luogo di culto, punto, come avviene in qualunque altro paese, appunto, secolarizzato. Perché uno dei grandi aspetti, il terrore della secolarizzazione, diciamo, c'è in moltissimi politici di varia area, anzi varie aree, varie. Scusa. Del resto gli andreottiani sono dappertutto, diceva il famoso Brocardo della Prima Repubblica, per cui così come gli andreottiani nei luoghi più impensabili. Io poi sono ormai giunto alla conclusione che ognuno nella vita è stato un momento andreottiano, ce l'ha avuto, vabbè, è chiaro, credo, sì, almeno sì. Noi italiani, perché è qualcosa che però insomma, sfido a chiunque, no, non senso, magari avuto. All'interno della nostra dimensione, senza esserlo dentro, cioè, senza negare in qualche modo la propria cultura, però con qualche volta c'è, cioè, delle scelte di tipo andreottiano all'interno sempre del nostro paradigma, diciamo, anche estetico, diciamo, direi. Che poi, insomma, ecco, questo era una nota, questa molto antropologica, secondo me, sì. alla fine, diciamo, se uno ci pensa bene. Ma pure all'inizio, se sì. Vogliamo, dai, insomma. Vabbè, comunque, insomma, quindi che cosa sta succedendo? Insomma, questo è il grande timore della Chiesa Cattolica, io credo, insomma, credo, lo dico per alleggerire, ma insomma ne sono più che certo per motivi di così una mia certa esperienza, diciamo, nel frequentare le stanze vaticane negli ultimi 1500 anni, almeno, insomma, che è appunto il grande terrore della Chiesa Cattolica dalle origini. Cioè, nel senso, alle origini non si presenta questo problema perché c'è un impero che di fatto ancora in qualche modo è in piedi, no? Quindi siamo nell'epoca costantiniana teodosiana, quando poi si viene spazzato via tutto il, o almeno insomma sulla carta, il cosiddetto paganesimo, e poi generando i presupposti per lo sviluppo di diversi cristianesimi, che appunto sono proprio il problema, e questo c'è dall'origine, e il tentativo costante ovviamente di ortodossizzare. Scusate, c'avevo pure l'acqua, ma vabbè, l'ho lasciata nella tasca, dopo la prendo. La portiamo. No, ce l'ho, c'è una bottiglietta in tasca. Oggi c'ho l'acqua. per festeggiare così un tozzo di pane. Un tozzo di pane, sì, così. Loro non ci vedono, ma noi indossiamo un saio quando entriamo, certo. Perché ognuno si mette un abito, noi abbiamo il nostro saio teologi estremi, che è un saio particolare con delle corde, perché ci arrampichiamo. Sì, insomma, poi alla fine abbiamo la magnesite. Per... Il modello è quello dolciniano, comunque, sempre lì andiamo a parlare. E quindi, insomma, dicevo, c'è questo problema che finché c'è un impero che poi lentamente si trasforma, diciamo, il discorso dell'universalismo che è all'origine del cristianesimo paolino, che lui è l'inventore, perché l'ebraismo non ha nessuna vocazione universale, in quanto proprio è ossimorica, sarebbe diciamo un popolo eletto, non si apre ovviamente per motivi della scrittura, glielo vieta all'altro, anzi ci convive con difficoltà, oppure anche insomma fa finta di essere molto arrabbiato, perché lo conosciamo il lungo conflitto del precedente. Poi loro, diciamo, l'ebraismo appunto scompare perché Gerusalemme si affloscia sotto il dominio romano e diventa altro per la mancanza del tempio, e quindi si apre la... E anche lì gli ebraismi si moltiplicano, che non sono proprio tutti uguali, sì, però lì è permesso dal fatto che comunque, non essendoci un'autorità centrale che è la scrittura, tutto è nell'interpretazione, e quindi automaticamente l'interpretazione si fa, diciamo, locale. Però attenzione, in questo caso la cosa funziona, perché, come dire, la struttura, diciamo, del legame ebraico, qualora la comunità lo contiene nella contaminazione con l'altro non ebreo, e questo nel mondo antico ovviamente, anche perché intorno ci sono i cristiani, quindi non amano questo mescolarsi di sangue, e quindi gli consente di mantenere delle comunità, benché così qua e là nell'Europa, funzionanti, a partire dall'interpretazione della scrittura, che è tra virgolette universale per loro, cioè vale ovunque essi siano all'interno di una diaspora, che poi addirittura quando con la navigazione si aprirà al mondo, perché poi un po' di ebrei finiscono un po' dappertutto, se non altro perché sono stati indotti al commercio a un certo punto, e qui dopo mille anni i gesuiti arrivano in Cina e li trovano gelli e dicono cavolo, pensavamo di essere i primi, capito? Vabbè, loro, insomma, beh, i primi, loro sono i primi comunque, insomma, rispetto anche ontologicamente, certo. non l'hanno mai digerita questa cosa, gli altri, la primazia, purtroppo. I problemi della crisi dell'universalismo ovviamente arrivano a varie ondate, a seconda delle trasformazioni che l'Europa subisce, fino a, io dico Europa perché almeno fino al 1500 quello è il mondo, perché anche l'Oriente bisogna aspettare, diciamo, per le grandi missioni orientali ci sono microflussi, ma bisogna aspettare appunto anche proprio delle navi più attrezzate che consentono, quando appunto tu dicevi dell'arrivo dei gesuiti in Cina, in Giappone, insomma nell'estremo oriente, si va anche per mare chiaramente, quindi nell'oceano Indiano, passando qui nel Mediterraneo, poi c'è il tratto a terra e poi ci si imbarca nel Golfo Persico per fare poi la traversata dell'oceano Indiano. Se arrivavi vivo e tutto intero, dopo qualche mese, perché poi facevano le tappe, certo. Più che altro perché la nave aveva bisogno di tutta una serie di cose, e soprattutto era anche commerciale, non è che non c'era il traghettino che ti portava tre missionari, economicamente non era spendibile, erano ospiti, diciamo, di un naviglio che aveva i suoi obiettivi. E quindi in questa fase appunto si apre la questione del conflitto, che però nasce di fatto da Lutero. Il problema di Lutero, che abbiamo analizzato a questo punto, non lo rievochiamo, lo conosciamo bene, però ci serve solo per ricordare che in fondo, dietro a tutta la reazione che è del momento, e quindi risolve però i problemi, la Chiesa risponde, insomma, la bolla, la scomunica e tutto quello che sappiamo, fino alla rottura e poi ovviamente al conflitto. Questo perché? Perché è vero che il discorso di Lutero mette in discussione tutta una serie di questioni, a cominciare da quella che forse è più drammatica, e cioè dall'eliminazione del clero, perché Lutero fa un'operazione che spazza via l'intermediazione, questo è il grande problema. Però cosa porta via questa cosa? È proprio il fatto che questo clero, questo oggetto di intermediazione che è importante, è assolutamente deleterio e negativo per una serie di motivi giusti che individua Lutero, perché insomma, l'abbiamo detto, insomma, si sostituisce, ecco, sì, ma poi si sostituisce all'autorità divina, ma è in realtà necessario proprio per garantire come filtro una presenza che tendenzialmente dovrebbe evitare l'identitarismo, cioè la concessione a livello locale da parte dei vescovi di rapporti, di istanze e poi alla fine di una costruzione di una pratica religiosa che diventa legata a questo punto, perché siamo nel XVII secolo quando le cose si sono delineate appunto di tipo nazionale. E Lutero non vorrebbe, abbiamo detto, perché non è nel suo intento iniziale, arriva a dover lui fare un discorso in cui, come abbiamo detto tante volte, e questa è la chiave per leggere la vicenda e quindi mostrare il terrore da questo momento che si manifesta come devastante, perché il secondo grande scisma dopo quello orientale è stato sempre mal digerito, perché qui dentro proprio nord-sud dell'Europa praticamente. Nel cuore dell'Europa. Il cuore dell'Europa, che porta quindi questa crisi dell'universalismo, proprio perché Lutero lo usa il termine proprio nazione tedesca quando fa un appello, e quindi in qualche modo è costretto linguisticamente a dover definire una diversità da Roma. Roma non significava Roma locale, ma Roma universale, quindi quando si dice Roma non si dice questa città, ma si dice tutto il cristianesimo, la nazione cristiana però è transnazionale, cioè transidentitario. Certo. Invece lui parla, questo è il nocciolo del problema, e di questo, ora facciamo il salto perché tutto quello che c'è in mezzo non ci interessa in questo momento, è la manifestazione di politicamente di rischi che anche con tutta una serie di circostanze diverse, perché siamo nel XXI secolo e c'è una profonda differenza con il XVI, però la stessa questione si pone e quindi si parla nelle sacre stanze di timore di luteranizzazione. Questo è alla radice di questo conflitto che stiamo tentando di così analizzare tra il governo in questo momento interpretato dal Ministero degli Interni, dove veramente c'è il governo, con il corollario di un burattino uno zerbino, e ormai e sempre di più, poi insomma una serie di passaggi hanno chiarito che il terrore anche lì di perdere, ognuno ha le sue paranoie, tutto quel poco che si è ottenuto li porta a fare così l'acqua con l'orecchio, si dice a Roma, insomma. Ecco, per dire. Poi abbiamo in tempi talmente veloci, per cui prima erano processi che magari duravano una legislatura, comunque nel corso dei 5 anni, ormai adesso nel corso di 5 mesi è già tutto rivoltato. Al governo a Natale già c'era un disastro. Esatto, e comunque pure questo non fa bene, nel senso che noi non siamo mentalmente in grado di reggere questa velocità totale. Certo, e appunto questo è il problema. Allora, e che vuol dire quindi luteranizzazione in questo caso? Cioè vuol dire che le condizioni che hanno portato allo sfaldamento di come giustamente ricordavi tu, l'intermediario politico, perché quello clericale c'è, cioè il clero ancora nel cattolicesimo c'è e non è lo stesso dell'undicesimo secolo, cioè quando si forma. E fra l'altro, scusate, ti interrompo, sono arrivati proprio in questa settimana i dati su le vocazioni nel corso dell'ultimo, mi pare l'ultimo biennio, e quello che diciamo sempre, cioè va benino l'Asia, va molto bene l'Africa e l'America Latina, e chiaramente va molto male l'Europa, ma è un dato dovuto a ragioni oggettive, anche oggettive, lì insomma oggettive. È difficile, c'è una consapevolezza di questo persino in chi non è così dentro, almeno la sente, certo, la respira, ed è appunto questo il problema, che non c'è una responsabilità di questa crisi di politica con la mancanza di vocazioni che viene da lontano, però è collegata al fatto che la perdita di terreno ha aperto degli spazi che prima erano occupati dalla Democrazia Cristiana e che si muoveva sostanzialmente tenendo insieme perché la sua grandezza nel senso numerico teneva insieme, possiamo usare sempre i termini col beneficio di inventare, destra e sinistra, ma per dire nel senso il cattolicesimo sociale più magari progressista dei Lapira, dei Dossetti, tanti insieme personaggi alla reazione peggiore, alla reazione delle destre, anche le più becere, che magari non erano totalmente assorbite dalle Giove, gli erano ancora più addese, ma che però marginalizzate e quindi contenute. Questo lo vediamo anche da parte della Chiesa come autorità teologica, ma anche, come dire, nel rapporto politico, perché c'è una sintonia nella gestione dello scisma Lefebvre. Che è sì teologica, ma ha anche un potere politico, esatto, che oggi non possiamo discuterne, ma che durante la gestione riguarda la stampa, per esempio, l'informazione, perché come viene raccontato, chi lo racconta lo scisma è la RAI, non è che c'era altro. Perché siamo, diciamo, tra il 65 e il 75. Una riunione per discutere dello scisma Lefebvre. Esatto, che non c'è figa. No, quale riunione per discutere? Tutte vecchie, la madre, lui già era insomma grandicello, tutte vecchie. Cacao, il mio contuso. Malconcio. Malconcio. Senta, malconcio. Stiamo citando, ma non lo diciamo perché forse è uno degli apici proprio assoluti. Assoluti, assoluti. Col navigatore solitario che raggiunge proprio il picco. Certo. C'è tutto, ho fatto il navigatore solitario. Stavo in mezzo al mare, ero solo, e pensavo. Perché cosa faccio qui che non serve a un cazzo? Sì, è sublime. Con la Rolls Royce bianca, lui certo, biondo, ossigenato. E tutti gli ospedali che uno dopo tutti l'altro gli dicono no, via, può, non lo, può, ma sta morendo, pazienza, no, a noi non ci aspetta. A quest'ora no, ci siamo pieni, lo provi dai militari. E alla fine lo rimette dove l'ha preso. Capolavoro. Bene, quindi insomma questo è uscito dalle febbre e quello è un film del 77, quindi proprio il clou, e quando però ecco sta l'informazione un po' sta cambiando perché ci sono le TV private, si sta aprendo, ma le TV private locali, e bisogna aspettare la metà degli anni 80, quindi insomma sostanzialmente il 90% e poi le TV private non è che si mettono a scopogliare su questi temi a parlare dello scisma prevalentemente facevano pornazzi all'epoca, poi in realtà erano filmetti erotici di pirati perché nessuno era senza diritti e quindi la notte c'era tutto un mondo che anche Fantozzi lo intercettano in un film, racconta di questi maschi che improvvisamente scoprono questo piccolo universo che dura un po' e poi ovviamente partite, molto sport, domenica, esatto, molto sport e un po' di paranoie locali, specialmente a Roma perché essendo enorme ci sono televisioni che operano sul territorio, di quartiere quasi insomma ecco, e quindi parlano delle questo, cioè, non ci sono grossi dibattiti certamente sullo scisma dei fai. Se c'è qualcosa ne parla il telegiornale. Il telegiornale quindi ne parla facendo riferimento. Questo volevo dire, cioè c'è una gestione che in qualche modo lo addomestica, ecco, il conflitto. In realtà invece il conflitto era molto grave, al di là dei numeri che era. Perché? Perché è ancora irrisolto. In quanto Lefebvre era la punta dell'iceberg di una difficoltà di tenere insieme dentro la stessa Chiesa la modernizzazione. E la vecchia diciamo struttura tridentina che faceva leva su delle forme, proprio forme estetiche funzionali e infatti tra l'altro ricorre proprio in questi giorni se non ricordo male la celebrazione mi sa a marzo 65 se non ricordo male i primi di marzo 65 mi sembra proprio di ricordare la prima messa in italiano che fu un evento perché la celebrò Paolo VI ovviamente la prima messa in italiano la celebra il Paolo, non è che la fa fare al parroco era un momento importante l'Ampio Latino, cioè la fa il Papa e da lì quindi c'è questo grosso cambiamento mi sembra controlla dovrebbe essere diciamo dovrebbe essere proprio marzo 65 ma diciamo adesso vediamo se comunque il momento è quello ecco. se mi sono sbagliato perché questi sono i dettagli questa robettina cioè qui siamo a livello qui è. Vabbè stiamo giocando quindi il Paolo VI, 7 marzo 65. Ma sì, ma dai, anche oggi vai. Fra una tisi e un menisco ancora, però ancora funziono. Va bene, fammi non mi guardavo proprio il 7, devo dire.